la versione di Oscar Giannino. This is the end. Eccoci qua, Oscar Giannino torna a salutarvi. This has not been the end per il governo Letta oggi 2 ottobre. Pensate, nel 1887 cadde Gerusalemme, Salah ed-Din la prese dopo 88 anni di regno cristiano, ma invece gli angeli custodi che si festeggiano oggi non hanno fatto cadere il governo di Enrico Letta, perché nel va e vieni della roulette di Berlusconi, sì, no, lo buttiamo giù, lo teniamo su, lo mettiamo da parte, invece ce lo mettiamo in tasca, no, io metto in tasca tutti, voi non andate via, no, voi restate, va, dissidenti, cosa volete fare? Ora vi insulto, eh? Alla fine ha votato a favore. Questo è un paese in cui tutti i drammi finiscono in operetta, però... Come sempre, da Radio 24 noi dobbiamo tenervi assolutamente informati su quello che è successo. Niente paura, nella trasmissione parleremo di cose serie, non di queste, degli studi di settore, quindi autonomi che ci ascoltate. Telefonate all'800 24 00 24 per sfogarvi, perché vi daremo buoni argomenti per essere incazzati. Ma intanto Vincenzo Miglietta del GR di Radio 24 per le informazioni su che cosa sta avvenendo a questo momento in aula nella crisi. Vincenzo. Sì, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Nuovo intervento del Premier Letta ora alla Camera dopo il suo intervento questa mattina al Senato. Il Palazzo Madama, sappiamo, ha dato il via libera alla fiducia al governo di larghe intese. Adesso intervento di Letta qui alla Camera, il risultato sembra scontato anche qui a Montecitorio, soprattutto dopo il voltafaccia che hai ricordato tu, Oscar, di Silvio Berlusconi, quindi non ci dovrebbero essere sorprese, il governo dovrebbe andare avanti. Lo stesso Letta ha detto: riprendiamo il filo più forti e coesi, basta ricatti a questo governo, tanto è un esecutivo che non cade. Queste le parole di Letta, forte del risultato ottenuto poco prima delle 15 a Palazzo Madama. Oscar. Vincenzo, ma nasceranno o meno, da quel che si capisce in aula e in transatlantico, i gruppi dissidenti stasera del PDL? Guarda, qui alla Camera è già nato, è un gruppo che fa riferimento ad Alfano, qui alla Camera il gruppo consta di 26 deputati, il primo firmatario del gruppo è Fabrizio Cicchitto, che lo abbiamo visto molto attivo nelle ultime 24 ore. Va bene, grazie Vincenzo Miglietta per gli ascoltatori, gli aggiornamenti innanzitutto in tutte le trasmissioni, come vedete, e poi nei GR. Allora, torniamo a cose serie, perché io stamattina sono rimasto un po' colpito dall'ampiezza di questo programma trentennale che Enrico Letta si è intestato. Avrei preferito un governo con poche cose chiare, interventi immediati sul costo del lavoro e per aumentare le detrazioni sui redditi da lavoro dipendente, per tentare di fare un differenziale sulla crescita, visto che siamo ancora col segno meno. Avrei preferito una parola chiara sulla legge elettorale. Insomma, invece Enrico Letta si è intestato un programma molto ampio, vedremo, naturalmente non possiamo che sperare. Però per tornare a cose serie, parliamo allora di imposte. Io lo so che chi è in ascolto è un lavoratore dipendente, pensa che noi autonomi, professionisti, coloro che ricadono in ciò di cui parliamo oggi, cioè gli studi di settore, sono tendenzialmente, come da sempre vi addita la pubblicità dello Stato, la propaganda, sono degli evasori. Allora però parliamo oggi, ne riparliamo sistematicamente, ma oggi iniziamo a riparlare degli studi di settore, cioè degli strumenti in teoria nati anni fa, sono più di 250 per gli autonomi professionisti, con cui bisognava mettere in una maniera cooperativa a fuoco le possibilità di capire come si fa la cifra d'affari, l'imponibile e l'imposta, e che sono invece degli strumenti presuntivi asimmetrici con cui lo Stato ti dà una griglia di numeri in cui tu devi sottostare, e che nella crisi sono diventati, per chiunque di noi abbia perso clienti, liquidità, ha finito l'esposizione bancaria e così via, degli strumenti sempre più stretti intorno al collo. Ecco, ne parliamo con un ospite che interviene spesso su queste materie, Mario Pozza, il presidente di Confartigianato della Marca Trevigiana ed è componente anche della Giunta Nazionale di Confartigianato, con la delega alla semplificazione. Grazie a Mario Pozza per essere qui con noi a Radio 24. Grazie a tutti voi. Allora, io non so quanti di voi siate in ascolto, per esempio i tassisti che ci ascoltano tanto, loro lo sanno, ma quanti di voi che salgono sul taxi sanno per esempio che negli studi di settore, che sono tenuti ovviamente anche a loro a rispettare, bisogna essere congrui, bisogna essere coerenti rispetto a ciò che lo Stato immagina che tu abbia fatto, quanti di voi sanno per esempio che devono riportare in maniera differenziata secondo le circolari che impongono come si ottempera a questo strumento, gli studi di settore, che devono devono riportare in maniera distinta, per esempio quanto prendono per i servizi a tariffe differenziate ai sensi di un certo decreto rispetto a quanto prendono invece dal servizio taxi in convenzione. Pensate che loro non sono tenuti dalla legge a fare questa distinzione, ma lo studio di settore te lo chiede. O che ne so, per esempio i barbieri, lo sapete che devono, nello studio di settore ci sono due voci diverse, una per gli shampoo che utilizzano per i clienti, gli altri gli shampoo che utilizzano per la vendita, e naturalmente però per quelli in cui che sono previsti per la vendita, lì il problema è che bisogna indicare, non bisogna indicare il costo, ma semplicemente il prezzo ricavato. Potrei andare avanti ore a parlare di cose di questo genere, ma mi limito a un esempio che poi chiedo a Pozza di commentare. Per esempio, un'impresa edilizia, queste sono cifre oltretutto di un collega molto valido che conosco bene, si chiama Sergio Paleologo, scrive per l'inchiesta.it, ha fatto un po' di esempi qualche giorno fa. C'è un'impresa, una piccola impresa edile, che dichiara per esempio 125.000 euro di ricavi e 123.000 euro di costi. E no, perché lo studio di settore ti dice che a quel punto, con quell'andamento di costi, i tuoi ricavi dovrebbero essere 159.000 euro per essere congrui. Ma per essere coerenti lo stesso studio ti dice che dovrebbero essere 173.000. Allora Pozza, da questa geografia di impossibilità di ottemperare a tutte queste cose, come se ne esce dopo anni in cui il fisco dello Stato vi diceva a tutti noi autonomi, ma ci verremo incontro e li correggeremo? Cosa si è corretto? Ma finora non si è corretto niente. Gli studi di settore sono nati con la condivisione delle categorie, perché poteva essere un buon strumento per la misurazione delle capacità fiscali di un'azienda. Però man mano che il tempo passa sono stati stravolti, direi, e non sono pari pari a quelli che sono effettivamente le realtà dell'economia e del territorio, perché lei ricorda adesso un'impresa edile, ma un'impresa edile che è a Treviso o è a Venezia o è a Catania non ha gli stessi parametri, sono tutte diverse. E quindi questi studi di settore, anziché rivelarsi come un buon strumento per la misurazione della capacità contributiva di un'azienda, si stanno rivelando che sono un buon strumento per lo Stato centrale per far cassa. Ora, lo Stato aveva promesso nella crisi di venire incontro con degli studi agevolati esattamente a chi in questi anni ha visto diminuire la cifra d'affari, i clienti, la liquidità. È avvenuto o no? Ma non è avvenuto, no, perché guardi, gli studi di settore sono dati da tanta statistica. E cosa succede? Che nei momenti di difficoltà e di crisi, come stiamo vivendo in questi ultimi 5 anni, indubbiamente ogni giorno cambia l'economia, cambia il mercato e ci si trova a combattere con cosa? Con una ripartimazione degli studi di settore che quest'anno porterà un aggravio del 15-20%, dopo dipende da categoria a categoria, ma addirittura cervellotica, come ricordava lei, cioè qui siamo ormai arrivati che il professionista rispetto all'anno scorso deve perdere molto più ore per compilare lo studio di settore, perché vanno a chiedere quelle cavolate se il parrucchiere vende più shampoo o ne consuma di più, ha capito che non ne vende tonnellate in un giorno, quanto ne può vendere? Certo. Cioè, questi sono proprio giusto esempi per far capire ai nostri ascoltatori che questo strumento ormai è stato stravolto e indubbiamente trova una non più condivisione, sebbene noi lo riteniamo ancora un buon strumento, perché non è da buttare via, però bisogna ritornare qual era il principio di questo strumento. Ma se dovesse spiegare a un suo iscritto perché, per esempio, a seconda dello studio di settore previsto per un pittore edile i ricavi devono essere non inferiori a 1,4 volte i costi sostenuti, lei cosa gli spiega al suo iscritto? Ma è difficile da spiegarglielo, capisce? Perché se tu sei congruo e non sei coerente, devi metterci del tuo, mettere la mano nel portafoglio e aggiungerlo. Perché? Perché i tecnici del Ministero hanno detto che per essere coerente, nonostante lo studio di settore dica che tu non hai incassato o ricavato, tra virgolette, dalla tua attività tot, devi adeguarti su questo. Cioè, quindi è lo Stato che ti fa il bilancio. Lo Stato sa meglio di te che hai lavorato e hai perso quanto hai davvero incassato e quanto devi pagare. Allora ci fermiamo qui un secondo, perché voglio tornare su questa cosa degli studi agevolati che spesso leggete sui giornali annunciati con gran casse da parte dell'amministrazione tributaria. La la versione di Oscar. Eh sì, perché per gli autonomi continua a essere This is the end. Lo so, moltissimi protestate, mandate messaggi dicendo questa è propaganda a favore degli evasori. No, è per spiegarvi a quale regime impossibile in termini di tempo, di denaro necessario per pagare il consulente, di impossibilità di aderire a quello che c'è scritto nelle circolari, per chi è autonomo ed è professionista è sottoposto, tranne il fatto che poi ti trovi comunque non congruo e ti becchi comunque l'accertamento. A questo proposito, proprio per alcune decine, sono una novantina, di studi di settore che l'amministrazione tributaria in questi due ultimi anni ha dato a noi poveri contribuenti nella crisi, dicendo questi sono quelli agevolati, allora fino al 5 luglio, quando è uscita una circolare, sembrava che questi studi agevolati non fossero sottoposti a una cosa che c'è nel nostro regime di accertamenti tributari, si chiamano gli accertamenti analitico-presuntivi. Magari voi lavoratori del reddito dipendente non avete idea che cosa sono gli analitico-presuntivi. Sono quegli accertamenti in cui l'amministrazione tributaria si riserva il diritto di fottersene, insomma, delle tue scritture contabili. Ce ne sono di due tipi. Ce n'è uno rafforzato, nel quale comunque riconoscono un qualche valore ai tuoi documenti contabili. Poi c'è quello, l'analitico presuntivo puro. Il puro è un puro processo indiziario, cioè lo Stato si è data la facoltà di fottersene di qualunque tuo pezzo di carta. Ebbene, la circolare del 5 luglio ha naturalmente confermato che anche gli studi di settore premiari, nati dopo richiesta della categoria, per venire incontro a chi non ha un euro incassato per la crisi, ne ha pochissimi, anche loro ricadano nell'analitico prescrittivo puro, in questa specie di processo alle streghe del Malleus Maleficarum. È così purtroppo, Mario Pozza? Beh, purtroppo è così. Vede, qui si potrebbe andare incontro al contribuente, quello che ha un reddito inferiore, un reddito basso, quindi che di alzare un po' la soglia di de minimis, cioè di portarlo almeno a 50.000 euro, quindi rendere meno burocratica la tenuta contabile. C'è un patto tra il contribuente che ha questi bassi redditi e lo Stato che gli dice: se tu guarda, arrivi a questa soglia di dichiarazione di redditi, tu stai tranquillo. Anche questo è un modo per agevolare, per incentivare il contribuente a fare il suo dovere. È che purtroppo qui, è come al solito, siamo forti con i deboli e deboli con i forti. Perché non dobbiamo dimenticare le transazioni che i grossi gruppi bancari hanno fatto pochi mesi fa e non solo. Si parla di centinaia di milioni. Quanti piccoli panettieri dovremmo mettere in lista per fare evasioni da 100, da 200 milioni? Diciamo che l'occhio di riguardo avuto con i grandi istituti bancari non è stato quello che si usa con il contribuente. Tantissimi di voi stanno scrivendo, grazie per esempio a Enrico di Cerveteri che ci segnala che ovviamente oltre allo studio di settore poi si è tenuto a compilare una serie di modulistica con gli stessi dati per IRAP unico eccetera eccetera, o con distinzioni minime, e ogni minimo errore compiuto rende invalidi gli stessi con tutte le conseguenze di un accertamento che parte dall'inizio. Ci sono piccoli imprenditori di lì che ci scrivono con un linguaggio che è meglio che io non ripeta, ma di cui voglio dargli atto perché capisco il loro stato d'animo, per così dire. Sentiamo Paolo ci chiama da Verona, prego Paolo. Sì, buonasera. Ho avuto un accertamento sulla mia SRL creata nel 2001 relativo al 2004, mi scusi, sono un po' emozionato. 50.000 euro circa di fatturato, 10.000 euro richiesti secondo lo studio di settore, e dato che la contabilità è ordinaria ho detto andiamo avanti, facciamo un accertamento, porto tutti i libri davanti al richiedente in agenzia delle entrate, il quale mi fa firmare, perché mi dice che è obbligatorio farlo, un verbale di comparizione dove io dico che non aderisco alla sua proposta di dimezzare i 10.000 euro che mi chiedevano come fatturato in più a 5.000, per non dichiararmi implicitamente evasore, perché certo, non lo sono. Certo. Andiamo davanti al giudice. Ah, prima salta fuori che il mio commercialista mi dice che io ho firmato una confessione firmando quel verbale, cosa allucinante. Andiamo davanti al giudice in contenzioso, io e il commercialista, il giudice mi dà ragione in prima istanza. Fissa una seconda udienza nella quale, mi scusi, avevamo accertato di aver sbagliato effettivamente 500 euro, sì, per cui eravamo disposti a pagare quello che era il giusto. Non sono stati nemmeno guardati i documenti, il giudice ha detto, beh, visto che lo Stato ha bisogno, in sintesi, tra le righe, cerchiamo di venirci incontro. Io ho detto, faremo la metà, ha fatto circa 3.700 euro che mi ha fatto pagare. Ecco, l'esempio di Paolo è un esempio di come procede lo Stato pur di raccogliere. A un certo punto si rivolge al contribuente e dice, beh, insomma, lei capisce, noi abbiamo bisogno. Il contribuente deve prescindere da quello che ha realmente realizzato, non realizzato, dai suoi costi, e si deve piegare allo Stato, perché altrimenti ovviamente è peggio. È questo uno Stato di diritto? No, non lo è nel contenzioso tributario. Michele ci chiama dalla provincia di Cuneo, prego Michele. Buongiorno, buonasera Oscar, bentornato. Allora, lavoro per una piccola azienda di camion da cava e lo studio di settore va a seconda dei mezzi che uno ha. L'unico problema è che il lavoro è calato parecchio, dei dipendenti hanno trovato altro, se ne sono andati via, i camion non si riescono più a vendere e cosa succede? Succede che magari su 8 camion sei solo più due a lavorare e tu paghi però più 8 camion. Quindi la cosa che, perché vi sia chiara a casa, il conto si fa su quante camion possiede l'azienda, non su se girano e lavorano o meno. Vi pare una cosa logica anche per voi che non siete sottoposti ai suoi settori? No, non lo è. Marco da Brescia, prego Marco. Salve, buonasera, grazie di farmi intervenire. Allora, io vorrei soltanto esprimere questa mia considerazione, cioè gli studi di settore che appunto lei, Oscar Giannino, sta contestando, come vengono contestati da tutti i lavoratori autonomi, sono stati creati, sono stati poi bene o male, lo possiamo andare a vedere in un secondo momento, però sono stati creati perché? Perché c'è un'evasione enorme, perché c'è l'evasione, perché fondamentalmente le partite IVA o lavoratori autonomi, nella generalità ovviamente parlando, cioè perché ci sono i buoni e i cattivi come sempre, sì, c'è evadono. È inutile starci ancora a girare su questo argomento. Se non ci fosse l'evasione, non ci sarebbero neanche gli studi. No, guardi, abbia pazienza, gli studi di settore, visto che questo è un sistema che aveva fatto la scelta credendo che tutti, o comunque la stragrande maggioranza dei lavoratori si sarebbero trovati nella posizione del sostituto imposta, cioè del lavoratore dipendente, di fronte invece alla caratteristica del mercato del lavoro italiano, cioè di avere milioni di piccole imprese e di lavoratori autonomi, la fascia più elevata dei lavoratori autonomi in tutti i paesi avanzati, nascono dall'idea di una pianificazione fiscale condivisa eccetera eccetera, non come forma di persecuzione dell'evasione fiscale. Il problema è che sono scritti in un modo che rispecchia l'amministrazione tributaria italiana, eccessiva, cervellotica, con un contenzioso in cui non hai diritti, tanto per capirci devi metterci un terzo di quello che ti chiedono sul tavolo per andare in contenzioso. Tutto questo prescinde dalla giusta persecuzione dell'evasione fiscale. Non è che io devo accettare ciò che non è giusto nel sistema di accertamento e di definizione a prescindere dello Stato in nome della lotta all'evasione. Bisogna su questo essere tutti precisi. Pozza, lei che si aspetta in conclusione a breve da un governo come quello che va avanti? Qualcuno interverrà? Ma io mi auguro che si intervenga, anche perché io ho avuto modo di incontrare Befera qui a Treviso, gli ho detto guardate che se si continua su questa strada, le nostre zone industriali ormai sono dei cimiteri e nei cimiteri non si pagano tasse, non si pagano contributi, al massimo si paga la corrente dei lumini, ha capito? Questo è lo Stato che noi non vogliamo ad arrivare. Le do un dato, dal 2005 al 2013 le entrate fiscali sono di 31.417 euro al minuto in Italia. Esatto. Ecco, le do un altro dato ufficiale, e la pressione fiscale in Italia è la più alta in Europa, ci segue la Francia, però noi abbiamo da loro a noi una differenza, noi abbiamo 269 punti di burocrazia, loro ne hanno 132. E quindi ovviamente l'onere aumenta. Va bene, abbiamo dato in pochi minuti un'idea di che cosa sia l'inferno degli studi di settore, cambiamoli, in nome della lotta all'evasione che funzioni. Sono d'accordo con tutti, appuntamento a domani qui sempre su Radio 24.